Cercando un'altra strada, trovo quella che porta dentro di me. Io non riesco più a tornare, sono stato spesso altrove per non essere più qui dentro di me. Un'altra dose per uscire, devo veder la luna e non avevo mai visto dentro di me. Non arriva il nuovo giorno, fuggendo dalla paura e dal nulla nascosto dentro di me. Cado in preda del passato, con gli occhi bendati, polsi legati, quante sono le porte chiuse. Tra i muri della notte e le allucinazioni, chi sono i miei fantasmi? Dentro di me c'è un sogno che mi sfugge, sentivo un gran dolore come solco profondo dentro di me. Io lottavo contro te, basta un solo passo per spegnere la mente, all'alba sarai con me. Anche stamattina, al sorgere del sole, ti chiedo ma perché, perché, perché? Cercando un'altra strada, io non riesco più a tornare, oh yeah, yeah. Sono stato spesso altrove, un'altra dose per uscire, oh yeah, yeah. Volevo veder la luna, non arriva il nuovo giorno, yeah, yeah, Fuggendo dalla paura, cado in preda del passato, yeah, yeah. Avevo il senso vago, c'è un sogno che mi sfugge, yeah, yeah. Sentivo un gran dolore, io lottavo contro te, oh yeah, yeah, yeah.